alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. Tredicesima puntata. Quest'anno per Natale sarò in Inghilterra. Terribili padroni, riescono le parole. Quando non volle averle dette, era passato un anno e dietro alle sue spalle sciacquava l'onda crespa e viscida della dogana, appena verde, tra barchetti, cordami e vele in manovra, così fitte che la linea dell'orizzonte ne era coperta. Non voleva averle dette, ma era come non voler morire quando la morte ti chiama. Esse l'avevano dominata e costretta giorno per giorno a decisioni e ad atti sempre più impegnativi. S'era posta dei termini, li aveva pubblicamente confermati. Non era andata a Roma, non aveva accettato il denaro dello Stiattesi, ma aveva posto firme in fondo a lunghi cartigli che non sapeva in verità sino a qual punto avessero serviti e soddisfatti i matrimoniali progetti di Antonio. S'era affidata nolente a un suo umore fattivo che per lei aveva recitata la lezione degli itinerari, convenienze, fermate, preparativi, bagagli, ma anche adesso, in attesa di prendere il mare, il piede sui macigni scabri di quel molo veduto sempre da lontano, quel che non ha finito di accettare e spiegare è come Antonio, il pallido ragazzo soggetto, l'innamorato immutabile, abbia rinnegata Artemisia. In un anno di lavoro, di traffici, di dispersioni senza fine, non è riuscita a consumare l'immagine fiorita come da un inchiostro simpatico. Ha con sé una donna un poco moretta. Quella sera che tornò a piedi da Palazzo Davalos e a saziare la sua paziente disperazione con qualcosa che non sia questo decreto d'esilio. Tanto acre nello spedirne la sentenza che non si è accorta di aspettare che una persona o un evento le impediscano in qualche modo di metterla in esecuzione. Ed ecco, se ne avvede adesso e non le resta che un'ora di tempo per coltivare questa speranza appena scoperta, per dedicarsi cioè all'attesa di un miracolo. Chi mai può trattenerla? Antonio, immemore, estraniato, che a un tratto s'accorga di non poter vivere senza la difficile compagna dalla matita veloce. Francesco, per la prima volta offeso dall'amata sorella che non gli permette d'accompagnarla, e più lui ha pregato e meno lei ha consentito, ma era un gioco lagrimoso, un gioco femminile da non prendere sul serio, e Francesco capito non l'ha. Un qualche ammiratore remoto, fino a questo si appiglia Artemisia, che arrivi in carrozza e ne scenda e dica: non dovete spatriarvi, signora, son qua io per voi, e guai a chi vi tormenta. Nulla di più giovane, di più deserto dell'animo di questa quarantenne che ostenta impazienza di imbarcarsi, ma fissa avidamente ogni oggetto, ogni persona, fissa soprattutto Porziella Fragame, sposa di un mese e accigliata assai. Chi ne segua lo sguardo scoprirà facilmente perché Porziella stia di malavoglia. Il fatto è che la ricca gonna di sua madre, tanto broccato tolto al proprio corredo, vien spazzando le bucce di fico e di melone sparse per terra, sfiora pericolosamente una pozza di catrame, non si restringe a scansare il lercio facchino che reca sul capo traballando un orcio gocciolante. Un piccolo grido stizzoso le sfugge quando una stilla d'olio cade su quella falda morbida e lucida. Non fossero l'abito da sposa, il contegno da mantenere in luogo pubblico, la compagnia dei parenti nuovi, Porziella si butterebbe in terra e, raccolto fra mano quel prezioso lembo, tenterebbe di detergere la macchia. Tanto è netta e precisa la fredda figlia di Artemisia, allevata in monastero. Certo, essa pensa sdegnosa: nulla bada mia madre. E rabbiosamente si ripromette soddisfazioni di ordine, di comando in casa del marito. Porziella sa quel che vuole. Ha voluto Gennarino Fragame, chiatto di corpo e di viso, assonnato sempre, carico di pavide vanità. Ha voluto una suocera decrepita e inerme. I napoletani non la vedranno di frequente in giro perché non le piace sprecare le vesti buone per le strade. Ha portato dote. Ha portato roba e gioielli. Questi pezzenti di pittori se li vuole scordare. Signora madre, il cappuccio! prorompe a un tratto, non sopportando il disgusto di vedere quel leggiadro indumento in pericolo di sconciarsi per essere mal sorretto dal braccio della negligente Artemisia, la quale sembra non udire e con quei suoi occhi di acqua profonda si incanta a guardare Porziella. Mai, come in questo punto, ne ha penetrato il profilo raccolto, il colore delle carni, lo sporgere dello zigomo che al suo somiglia, il portamento delle spalle rotonde fuor della rigidezza del corpetto. Un bel ritratto sul gusto fiammingo, non manca che la finestra aperta da cui si veda il mare. Ecco cosa significa andare in Inghilterra, guardare il viso di una figlia e vederlo come un oggetto distante, completamente staccato da sé, raggiungibile solo per effetto di memoria. È già memoria, infatti, l'attenzione accorata di Artemisia. No, no, nessuno la tratterrà. Il Bertone olandese già mette la vela. Lei sa i gesti che dovranno esprimere la sua decisione di donna virile e già li rimpiange, come tanti altri che di 10 in 10 anni la sua misura di mutamento ha rinfacciato a se stessa. Questa volta ne è certa. 10 anni non esistono per lei, tanto vale anticiparne la scadenza, partire. Le pare oggi di prestarsi a un inganno e che tutto il tempo non sia che presente, un presente che si affila sulla mola del passato e fra poco sarà sospesa nell'eterno. Ma questa è una delle mie idee pazze, afferma la sua voce interiore che spesso, quando è sola, comincia a formarsi visibilmente sulle sue labbra. Intanto badava a non abbassare il capo secondo il suo modo giovanile, perché le pieghe del suo collo dimagrito, constatate ieri allo specchio, non si notassero. Veniva avanti Massimo Stanzione, che quando vuole sa essere così tenero, ma è divagato anche quando non vuole. La nostra Artemisia, dice stendendo le braccia, questa Inghilterra ce la rapisce, non sapremo darcene pace. Ma è irrequieto, si volge ogni momento indietro, si fa ombra con la mano sugli occhi per guardare verso la città, tutti gesti parlanti di una vita che non riguarda più chi deve partire. Figli scherzi in dialetto col ragazzo dei limoni e il parlottio con un Don Giacinto calabrese che lo accompagna. Questo è Don Giacinto, servitor vostro. Proclamano la elusiva realtà di giornate future da cui Artemisia è espulsa, cancellata. Per chi, d'altronde, è ancora presente? I minuti galoppano e ognuno li trova lenti. Solo padre Eustachio dei Girolamini, che batte il piede nervoso ed esclama per la terza volta «Che bella giornata!» dà a Fede, col suo sbadiglio in pelle, che l'imbarco non è ancora avvenuto. All'ultimo arrivarono due giovani pugliesi dalla lingua inceppata e renitente, scolari di Andrea Vaccaro, elatori dei suoi doni e complimenti, uno sciroppo, una croce d'argento, 6 paia di guanti fini. Massimo s'accosta a curiosare, Porziella scarta i regali, qualche ozioso si ferma a guardare e Artemisia valse a tornare in sé, ringraziare, sorridendo, come partisse di buona voglia. Ecco che tutti, anche madre e figlio Fragame, cominciarono a chiacchierare fitto, quasi per coprire un rumore sconveniente. E il rumore sgangherato era, infatti, dal Bertone olandese, il chioccio scampanio del segnale di partenza, diffuso e spampanato per la dogana e sul mare. Quel po' di venticello rinforzò, le pance dei vascelli scricchiolarono ondeggiando sugli attracchi e si vide uno sciame di barchetti a remi correre a riva velocissimamente, radendo i fianchi delle navi, arrancando e sorpassandosi con urla di barcaioli in gara. Allora Nunziatina, la servente malevola che fino adesso ha custodito il bagaglio con aria contenta, resta con la padrona giovane che le ha promesso un marito, si butta di colpo in ginocchio, grida, geme, singhiozza, piange vere lacrime, si spettina e abbraccia le gambe di Artemisia. Attraverso i panni sente costei il calore umido di quella bocca aperta giungerle alla pelle. Signora bella mia, San Rocco, Sant'Ubaldo, Sant'Agata, nel villaggio dove è nata Nunziatina, fra asini e porci, così si piangono i morti da donne pagate a ore. Ma Artemisia non lo sa. Non partire, signora bella, questa serva tua non la lasciare. Sono le parole che la Gentileschi aspetta da un anno. Quando la tristezza era troppo amara per una donna tanto viva, il suo giovane cuore, così caparbio nella speranza, se le prometteva e formava per conto di chi le era vicino e lontano, Porziella, ravveduta e tenera, Antonio, pentito, e quel personaggio miracoloso, messaggero dei tanti che hanno detto di amarla da che è donna e che per eccezione non fosse un traditore. Pure anche queste le bastano, sicché arrossisce, si commuove, dolci lacrime le salgono in gola. Per un momento è consolata, è quasi persuasa. Tutti le hanno sempre voluto bene, anche questa serva che ha giudicato con asprezza, anche Porziella che ha il suo sangue, anche Antonio che le scrutava la mano e non può averlo dimenticato. Come se una volontà tiranna la dividesse dai suoi, si vagheggia con pianta ed eroina la celebre Artemisia che parte sola per i confini del mondo. Le si addicono il riso valoroso, la giovialità, la spavalderia. Nessuno dica che Artemisia ha paura. Il tempo degli abbracci, oh, l'odor tenero della nuca di Porziella ancor bambina, la trova così, esaltata in una generosità di immaginari affetti, da una sete di sacrificio irragionevole che tutto il suo sangue non basterebbe a saziare. Già il barchetto oscilla e cozza sull'onda contro il molo, già i facchini a gambe larghe sulle panche si lanciano e raccolgono le casse, i sacchi, gli oggetti nascosti che per essere sballati e servire dovranno attendere chissà quale luce, quale ora di un giorno lontano, se più serviranno. Si sporgono le mani che inutilmente stringono e così presto si liberano dalla stretta, le mani di chi resta a Napoli e saluterà stasera, domani, fra un anno, quelli che si vedono tutti i giorni. Poi i mille impacci di una donna che scende una scala di corda per la prima volta e non può ricusare di essere sostenuta, imbracciata, scompostamente calata da basso, formano un tessuto di necessità quasi vergognose e un nuovo avvilimento che le fa dire addio, addio al cielo divenuto lontano. Né la barcheggiata dalla riva alla Jonathan sulle onde sporche e travagliate del porto che già comandano cancella questo sgomento di affondare nel futuro. Porziella agitava la mano, il sole batteva sul suo smaniglio d'oro, agitava il cappello Massimo Stanzione e a un tratto volse la testa indietro. Nunziatina spolverava col petto di palma la sottana della padrona nuova, la bocca larga e sdentata di quel Don Giacinto, aperta in un vago sorriso d'ignoto, fu l'ultimo oggetto che Artemisia colse sul suolo di Napoli. Girarono sotto la poppa di un immenso galeone spagnolo, carico fra l'altro di schiavi mori. Il respiro oscillante di quell'enorme carcassa prevalse a ogni altro motivo. Sulla Jonathan, appena varcata sconciamente, le si videro le gambe fino alla coscia, la ringhiera del ponte di assi neri che i marinai stavano lavando, la tentazione di ridiscendere, di abbandonare quella falsa sicurezza del piede, di ritrovare la terra, fu disperatamente gelida, rifiutata dall'animo stesso che la esprimeva e le cedeva in sussulto. Le casse, il bagaglio numeroso le si ammassavano intorno alla rinfusa e lei era già naufraga in un mondo dove i bagagli non servono e non si intende che questo misero abbarbicarsi con le mani sudate contratte a un parapetto arroventato dal sole, appiccicoso di vernice e graveolente. Fu una donnina pallida che respirava fatica, tirando sul fiato ogni volta con un ergersi impennato delle spalle, ma nessuno ne ebbe visione e coscienza, quasi si trattasse di un fantasma, e lei stessa non si riconosceva più, affannata, a bocca tremante, intesa a resistere come un bruco o un ragno. L'esaltazione di un minuto, le illusioni, persino l'immagine di Anzi così spiccata, di Artemisia Gentileschi pittrice che va alla corte di Londra, le onde sporche del porto se le sono inghiottite. Fra l'intrico di vele, alberi, poppe inarcate, non distingue più la riva. Solo i monti intorno a Napoli la salutano, dandole la misura della sua distanza da terra. Ai poplastrelli freddi non si comunica l'ardore combusto del legno, stringe con quelli la sua bruciante sconfitta. Se ne va a 40 anni, senza fortuna, senza fama sicura, senza affetti felici e senza neppure l'antico orgoglio. Appena gliene resta tanto da non disdirsi. In questa forma di povertà priva di fantasia cominciò la vita marinara di Artemisia, una vita passiva, comandata da necessità nuove e brutali, da diffidenze esterne e interiori, dalle incertezze di un'iniziativa avventata, temeraria addirittura. Forestiero il legno, sconosciuto il capitano, ostica la lingua, estranei e fra loro legatissimi i passeggeri, nessuna protezione. Con le casse nella stiva scompaiono gli oggetti che definiscono il suo stato e il suo nome e si affondano nell'eterno anonimo di una vita comune, irrilevante, a cui peraltro siano mancati tutti i comuni appoggi, sicché più acre, più desolato, dopo un anno di pazienza e ostentata ragionevolezza, risorge quel bruciore del marito che la cancella, che forse l'ha già cancellata persino dal registro della parrocchia. È, oltre il dolore, una prova di umiltà per una che umile non è mai stata, anche quando la svergognavano, e con l'umiltà non ha confidenze. Avvezza al frizzo, al brio di una gioventù prolungata dall'eccezione, Artemisia, sola sul battello straniero, non ha misura nello svalutarsi e cede nel mortificarsi, incapace di difendere ogni propria naturalezza, non osa trascinar sul ponte la sua gonna di raso, né fermarsi, né parlare, né decidersi per il tipo di riserbo che si addice a una donna della sua età, a tutti sconosciuta. Si rifugia, giorno per giorno, nell'apprensione di un contegno puerile, scontroso, quasi fosse un bambino ammalato con cui nessuno vuol baloccarsi e vivere. Rifiutò la tavola del capitano, ma si fermava a salutare il secondo, un biondino che poteva, così argomentò, aver l'età di sua figlia. Sospettosa di se stessa, si pentì, immaginò di essere scambiata per una vecchia libidinosa e da allora non uscì all'aperto senza la cuffia bruna che domava le bizze giovanili dei suoi capelli leggeri. Non curò il mal di mare e lo aspettava come un diversivo, distesa a bocca sotto sul suo lettuccio, dove le riflessioni, le confessioni, i rimpianti nel buio odoroso di pepe e di pece le erano ben altrimenti insopportabili. In questa attesa di soffrire col corpo, spesso si addormentava, la gola stretta, il gemito che ne sarebbe uscito ci rimaneva accovacciato durante il sonno fino al risveglio ed esplodeva allora non con l'urto dello stomaco travagliato, ma con un singhiozzo dell'animo elementare. Oh Antonio, che cosa hai fatto? Era, nel sogno, un vaso bellissimo dai riflessi d'oro che Antonio aveva mandato in frantumi. Nella veglia, l'amore segreto e delicato, inventato da lui, il suo ritratto che non gli somigliava più. Si destava del tutto, si tirava a sedere sulla cuccetta, assisteva quasi stupita a quel costante sdipanarsi di singhiozzi, a quel flutto di lacrime che l'asciugavano come un lino strizzato, e ricercando le fila dell'invisibile ragionamento che si era svolto nel sonno, sentiva coincidere i colpi sordi del cuore col rullio della nave. Come qualcuno avesse potuto sentirla, premeva il fazzoletto sulla bocca, poi si ricordava di dove si trovasse e buttava giù le gambe. In piedi, nello spazio ristretto, rimaneva immobile, mentre il dolore, questo terribile infante, si agitava nel suo seno, succhiandole il sangue e mandandole in bocca l'amara saliva del pianto. Si ridistendeva, il capo le girava, il lenzuolo sotto il suo corpo era tutto un viluppo madido. Si chetava, finalmente, e la debolezza delle membra, lo spremito di quel singhiozzo insaziabile che ancor le batteva le tempie, la facevano sperare in un sospetto di malore che dalla sua volontà non dipendesse. La Jonathan navigava costeggiando per scampare ai barbareschi e ai pirati che di quella stagione giravano sempre a caccia di preda. Passarono, avvertì il secondo, davanti a Fiumicino. C'era temporale sulla costa e nuvoloni di polvere rasoterra nascondevano la riva. Si era immaginata Artemisia che distinguerebbe la cupola di San Pietro e senza chiederne la cercava, crudelmente, La linea della costa si confondeva col cielo grigio. Crudelmente la nave rinforzava la corsa sotto le vele tese, alzando allora la testa, le agilità incredibili dei mozzi sulle corde, il volo dei gabbiani, il fischio del vento e quegli enormi gonfi lenzuoli che vibravano da schiantarsi le proposero un'imminenza così catastrofica e mortale che l'ultima ora vi sembrava descritta. Stringeva le labbra contro il gran vento senza domandare d'essere assicurata e quasi senza paura aspettava un tracollo. A piedi nudi sulle assi battute fradice correvano i marinai. Qualche sordo fragore, qualche grido lungo stralciato dal vento. Le onde si scavalcavano, lievitavano sempre più grigie, attingendo dal fondo nero invisibile un mostruoso incitamento. Se qualcosa esprimeva l'animo di Artemisia in quel frangente era stupore, meraviglia che la propria fine richiedesse quasi un portento, e se ne inebriava, appagandosi così fuor d'ogni coscienza la sua vecchia sete di trionfo. Non venne la fine, anzi più tardi seppe la Gentileschi che neppur di vera burrasca s'era trattato. Quelle onde scure non erano che un po' di maretta, ne ebbe una specie di nebbiosa delusione e quasi dispetto. Giorno e notte, a intervalli di una tremenda musicale regolarità, ritornò quel singhiozzo roco, inarticolato, che commemorava insaziabilmente la sua sconfitta. China sul parapetto e guardando la schiuma bianca della scia sul mare calmato, c'erano momenti in cui si chiedeva la ragione di quel dolor sotterraneo e cercava di posarla davanti a sé come un oggetto che debba esaminarsi con cura. Tanti anni che non vedeva Antonio, tante vicende occorse a distrarla e a cancellarne l'immagine, per tanto tempo una così smorta memoria di lui, l'oggetto individuato e raccolto bruciava da non poter essere toccato. Si ingegnava allora di richiamare alla mente le proprie colpe, come si chiudeva nel silenzio alle premure del marito, come sicura della sua devozione ne godeva senza curarla, quasi senza assaporarla, parendole di essere libera e senza impegni di cuore. E quando gli rimproverava lo stato modesto, il mestiere povero, l'umore scontroso, e quell'ultima volta che irata s'era dovuta accorgere di quanto egli la temesse, se ne era andato, ma del suo amore era sicura. L'oggetto intoccabile, esterno, a questo punto bloccava l'immagine, dominatore, vivente. Di nuovo sgorgavano lacrime che il vento salato asciugava. Piangere d'amore a 40 anni, così i suoi pensieri giostravano. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.